nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Bentornati, buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Qui si continua a lavorare da casa, come molti di voi stanno facendo ormai da settimane e come credo ci toccherà fare ancora per un pezzetto di questa primavera che ci ricorderemo. Ma davvero bentornati, è una bella occasione di ritrovarci ogni domenica mattina insieme. Questo il programma Nessuna è Perfetta, nato 5 anni fa al grido basta multitasking è una fregatura, e che invece oggi ai tempi del coronavirus si ritrova a dire multitasking è un obbligo, perché facciamo tante cose in queste giornate in casa e le sovrapponiamo, lavoriamo e facciamo tutto il resto, come dire, che si impone in un menage, in una routine domestica. Ricordandovi il nostro numero per i vostri messaggi vocali 828 12 12, vi ricordo anche che sempre di più ci state facendo partecipare alle vostre vite, ci state raccontando quello che vi succede. Domenica scorsa abbiamo parlato di come ripartire. In tutti i paesi si sta programmando la fase 2, in Italia è arrivata anche la collaborazione, il contributo di un grande manager, Vittorio Colao, che è stato ospite di questa trasmissione qualche tempo fa ed è stato anche ospite di 24 Mattino, l'altro programma che, come sapete, conduco dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 9 con Simone Spezia. Dunque c'è la task force di Vittorio Colao che dovrebbe proprio aiutarci a programmare la fase 2 in Italia, e in altri paesi è cominciata o sta per cominciare. Noi la settimana scorsa ne abbiamo parlato con un ospite di eccezione, la ministra degli esteri norvegese, e nella settimana precedente, proprio pensando anche alle emergenze, avevamo parlato di servizio civile, di come in Svizzera, per esempio, di fronte a questa emergenza hanno potuto contare su del personale addestrato grazie al fatto che lì c'è il servizio militare obbligatorio che riguarda soltanto gli uomini e che però dura, è una forma di formazione continua, talché appunto con le emergenze hanno potuto richiamare in servizio tante persone. E ci sono arrivati i vostri messaggi sempre all'828 12 12. Splendida l'idea di questo sorta di servizio civile. Io personalmente lo renderei obbligatorio, magari non un anno, 6 mesi credo che siano sufficienti per instillare nei ragazzi giovani le nozioni di primo soccorso, qualcosa legato alla protezione civile, ma soprattutto magari anche alla conoscenza del proprio territorio. Tanta gente vive in una città e non conosce il proprio territorio, quelli che potrebbero essere i rischi, i pericoli o le cose che potrebbero interessare. Quindi lodevole iniziativa, ripeto, io favorevolissimo per renderlo obbligatorio per i nostri ragazzi, magari in attesa di un impiego. Grazie. Ecco, grazie, l'ascoltatore ci conferma che questa idea di un servizio civile esteso ai giovani che hanno più di 19 anni, ma obbligatorio e finalizzato a far apprendere una serie di nozioni che possano tornare utili in casi di emergenza. Pensiamo ai terremoti di cui purtroppo l'Italia è vittima quasi annualmente, pensiamo a tutte le questioni geologiche, ma pensiamo anche alle epidemie, perché secondo gli scienziati intanto non c'è certezza che il coronavirus non si ripresenti il prossimo autunno, ma poi c'è invece la certezza che una nuova epidemia da qui a qualche anno potrebbe riproporsi. E dunque Il servizio civile obbligatorio che faccia sì che i nostri giovani siano preparati ad affrontare questa emergenza è un'ottima idea e grazie al nostro ascoltatore per condividerla. Sentiamo un altro dei vostri messaggi arrivati all'828 12 12. Buongiorno Maria, ho ascoltato con molto interesse la sua intervista alla ministra, se non erro degli esteri, norvegese, e mi ha fatto molta impressione, sinceramente, sentire che anche in paesi comunque considerati ricchi come quelli del nord Europa, le conseguenze del coronavirus si stiano facendo comunque sentire. Mi permetto, però, a questo punto di aggiungere una personale riflessione. Sbaglio a dirlo, come sempre sembra che l'Italia si stia muovendo in ritardo, anche per quanto riguarda la famosa fase 2. Grazie mille, buona giornata. Beh sì, l'intervista alla ministra Ine Eriksen Søreide ha aperto, diciamo, uno scenario che magari qui da noi non immaginavamo, vale a dire le preoccupazioni per l'impatto che l'epidemia di coronavirus avrà sulle economie di tutti i paesi viene avvertita come una preoccupazione seria persino in un paese come la Norvegia che negli ultimi decenni ha potuto godere di un'economia, diciamo, molto solida anche grazie alle risorse arrivate dal petrolio. E parlando di Norvegia, però, mi sembra inevitabile citare un'osservazione, che il mensile Forbes, ha, come dire, lanciato, mettendo insieme due elementi. Quali sono i paesi che sono usciti per ora meno ammaccati, diciamo, dall'emergenza coronavirus? Nuova Zelanda, Islanda, Taiwan, Danimarca, Germania, Norvegia. Ebbene, qual è il filo conduttore, oltre alle misure, che evidentemente hanno, funzionato in ciascun paese? Qual è il filo conduttore in tutti questi paesi? Hanno una leadership femminile. Ebbene sì, dalla Germania alla Nuova Zelanda, dall'Islanda a Taiwan e alla Danimarca ci sono leader donne al governo. E proprio di questo abbiamo parlato con la ministra degli esteri Ine Eriksen Søreide la settimana scorsa e vi faremo riascoltare una piccolissima parte di questa intervista proprio nella parte in cui le chiedevo se le decisioni quando torna a un tavolo sono in maggioranza donne si prendono più rapidamente perché il governo norvegese ha una premier donna e le ministre donne sono in assoluta maggioranza. Sentite cosa ci aveva risposto. Per quanto riguarda la mia esperienza diretta, quando ero ministro della difesa c'era molta cooperazione con le ministre della difesa tedesca, che era all'epoca Ursula von der Leyen, e olandese, Janine Hennis-Plasschaert. Eravamo tre donne. Abbiamo messo in piedi iniziative che non erano il risultato del fatto che fossimo donne, ma senza dubbio con velocità e pratica. Questo grazie ai buoni rapporti che c'erano tra noi. Ma di questo argomento abbiamo parlato di fase 2 e di soprattutto come l'impatto delle scuole chiuse, del fatto che le lezioni si tengano on air, avrà effetti sulla vita professionale di molte mamme. Ecco, di questo abbiamo parlato in un webinar mercoledì 15 aprile, organizzato, promosso dall'associazione Fuori Quota, la cui presidente è Maurizio Iachino. C'erano tra i promotori Alessia Mosca, già eurodeputata del Partito Democratico e firmataria con Lella Golfo della famosa legge Golfo Mosca sulle quote nelle società partecipate. C'erano Massimo Brai, direttore generale della Treccani, che è stato anche ministro della cultura di qualche governo fa, e c'era Francesco Lucisano, oggi manager, ma che era stato a suo tempo capo della segreteria tecnica proprio del Ministero dell'Istruzione. E In quell'occasione, cioè mercoledì scorso, quando abbiamo tenuto questo webinar, avevo chiesto a chi ci stava sentendo di mandarci dei messaggi all'828 12 12 anche per parlare del tema delle scuole che non riaprono, a differenza di quel che succede in molti paesi. E sentite che cosa ci avete fatto sapere. Salve a tutti, buongiorno, mi chiamo Laura, sono un'insegnante e volevo portare questo commento. Perché no sulle lezioni fino alla fine di luglio? Perché a metà luglio ci sono gli esami di maturità, quindi sarebbe possibile prorogarle fino alla fine di giugno, ma luglio è già impegnato. Tornare a scuola, secondo me, si potrebbe tornare soprattutto nelle regioni in cui non è così importante l'epidemia, e anche in Lombardia, con i dovuti accorgimenti già dall'inizio di maggio, per esempio per le quinte e per le terze medie, per gli ultimi anni delle elementari, ma soprattutto per le quinte e le terze medie, perché devono affrontare gli esami per dare la possibilità ai ragazzi di prepararsi con cura. Sulla mia esperienza, devo dire che le classi che funzionavano, diciamo così, che rispondevano bene, in realtà hanno risposto bene, anche se con fatica nostra, gli insegnanti e loro naturalmente di studenti, alla didattica a distanza. Per esempio, riesco a fare approfondimenti e sicuramente a completare il programma. La difficoltà più grande è con le classi in cui molti elementi erano più fragili. E qui sono assenti alle lezioni, ma erano alle lezioni online, per problemi sicuramente legati anche alla strumentazione, però erano assenti fisicamente anche alle lezioni regolari. La nostra scuola ha dei tablet, sono a disposizione degli studenti, ma molte volte sono le famiglie che non riescono, non lo sanno, non si attivano, anche su richiesta non trovano il modo di venirli a ritirare. Cara Laura, è anche proprio di questo che parliamo questa domenica, perché vi ho fatto una lunga introduzione, ma il tema di questa domenica è il tema che interessa tante famiglie. Perché in Italia le scuole non riaprono? Perché riaprono in Germania, riaprono in Francia, riaprono, ce l'ha detto la ministra degli esteri norvegese, in Norvegia, riaprono un po' ovunque, tranne che in Spagna e in Italia. C'è un problema di, come dire, impatto del coronavirus, che in Italia e in Spagna è stato più violento, di quanto non sia accaduto altrove, ma è anche vero che l'impatto violento, si è concentrato in alcune regioni italiane, purtroppo in Lombardia, in parte in Veneto, che però ne sta uscendo, in Piemonte, mentre nel resto d'Italia l'impatto è stato meno violento. E allora perché invece questa chiusura generalizzata? E quanto influirà sul ritardo che i nostri ragazzi accumuleranno, molti dei quali non hanno gli strumenti, non soltanto tecnologici, ma anche gli strumenti di essere stimolati e seguiti dalle famiglie. E terza e non ultima questione, quante mamme saranno costrette a rimanere a casa, anche se invece farebbe comodo al bilancio familiare ritornare al lavoro, perché se no con i bambini chi ci sta? Tanti interrogativi, tanti temi, e di questo parliamo con i nostri ospiti proprio tra pochissimo. Nessuna è perfetta. Eccoci, eccoci di nuovo a Nessuna è Perfetta. Benvenuta, buona domenica da Alessia Mosca, segretario generale di Italia ASEAN, vicepresidente dell'associazione Fuori Quota e è stata ospite tante volte in questo ruolo, cofirmatario della legge Golfo Mosca sulle quote di genere. E dunque, Alessia, abbiamo parlato in tante occasioni qui a Radio 24 di smart working e di scuola a distanza, homeschooling dei figli. E sono tante le famiglie che stanno sperimentando i limiti e le potenzialità di questi due sistemi. ci siamo trovati sicuramente forzosamente in una situazione in cui tutti praticamente stanno sperimentando questa modalità. E bene come l'hai detto, cioè è una grande volontà, ma può essere anche un grande rischio se non gestito nel modo migliore, perché nell'emergenza di solito si fanno con i processi abitudinari e non ci si rende conto che se non si mettono in atto dei forti correttivi si rischia di inasprire diseguaglianze che erano già presenti nella nostra società, e sappiamo benissimo che sia sui termini di pari opportunità e di occasioni per le donne di essere partecipe nel mondo del lavoro, così come in termini di scuola, il nostro paese non eccelleva già prima per aver ridotto queste diseguaglianze. Quindi oggi abbiamo questo grande rischio di uscire da questa crisi con una doppia diseguaglianza che va a toccare gli aspetti più fragili della nostra società, le donne più in difficoltà e i bambini più in difficoltà. Ecco, vorrei prima affrontare il tema dei riflessi che il tenere le scuole chiuse avrà sulla vita delle famiglie e sul lavoro delle madri lavoratrici. Una cosa che colpisce è non aver calcolato che se le aziende devono riaprire dovrebbero tornare al lavoro anche le donne, perché non è che nelle aziende lavorino solo uomini, anche nel settore metallurgico ci sono le donne che lavorano, ma questo fatto evidentemente preoccupa relativamente in Italia. Mentre invece tutti parlano di far ripartire il Made in Italy, far ripartire le aziende, dimenticando che il Made in Italy, per esempio, è fatto in larga parte di operaie donne, di artigiane donne. Tenere le scuole chiuse comporterà una riorganizzazione familiare, perché o le madri lavoratrici lasciano i figli ai nonni, come si faceva prima, ma adesso diventa problematico perché le persone più fragili, gli anziani, andrebbero tenuti separati, purtroppo, dico purtroppo perché è un problema non soltanto familiare ma anche di rapporti, di relazioni, comunque vanno separati dai bambini. E quindi alla fine saranno tante madri costrette a rimanere a casa con problemi di budget familiare e danno alle aziende. Alessia Mosca, com'è che questo tema non è ancora emerso quando si parla di riapertura delle aziende? Ma come dicevo, perché nel nostro paese c'è ancora molto diffuso, non è ancora stato sradicato questo pensiero per cui i figli sono una questione solo delle donne. Non è sempre così, ci sono state delle evoluzioni, però purtroppo in tanti passaggi, e in questo anche stiamo sperimentando, che non ci si ponga neanche il problema, perché comunque quella è una questione non solo privata delle famiglie, ma all'interno della famiglia è una questione delle donne. Quindi questo è sicuramente una questione che bisogna in tutti i modi far emergere, perché non possiamo pensare di uscire dalla crisi nella quale ci siamo trovati, ci troveremo, se non usiamo tutte le risorse che abbiamo a disposizione, ivi incluse ovviamente la grandissima risorsa delle donne, che già era ampiamente sottoutilizzata. Se si pensa di riuscire ad uscirne, e se tutti, anche le imprese stesse, pensano di riuscire a uscire da questa crisi senza usare tutte le energie che sono a disposizione, credo che facciano un pensiero assolutamente miope, perché non sarà possibile. Stiamo tutti dicendo ne usciremo, ma non perché siamo dei buoni, ne usciremo se ne usciamo insieme, vuol dire che tutti devono fare il proprio pezzo e vuol dire che tutti devono contribuire nel quanto possono a ripartire. Voglio sottolineare un aspetto: nessuno di noi ha in mente di riaprire scuole o qualsiasi struttura se non ci sono le condizioni sanitarie, questo va sempre ricordato, e nessuno pensa che la scuola abbia una funzione di babysitteraggio, come sento qualcuno che solleva come obiezione alla richiesta di riconsiderare la riapertura delle scuole. non è affatto questo il tema. Le scuole non sono le babysitter, le scuole hanno una funzione differente, ma il fatto di non consentire ai bambini di poter non perdere troppo del loro programma è intanto un pensiero che ancora una volta tutta la società si deve porre, perché se anche quelle mamme che sono quelle che non possono permettersi la babysitter restassero a casa, normalmente sono quelle che hanno anche meno opportunità di dare gli stimoli, quegli stimoli ai bambini, perché magari sono prive di quelle risorse culturali che altre famiglie hanno, che guarda caso sono anche quelle che si possono poi permettere la babysitter. Le scuole quindi sono ancora lo strumento per poter dare una eguaglianza sociale che altrimenti non viene garantita da nessun'altra struttura, da nessun'altra forma di socializzazione e di educazione che noi possiamo offrire. Quindi questo, credo, questa debba essere uno dei temi principali se non vogliamo che da questa crisi si esca con un livello di disuguaglianze che è enorme. Io temo che si possa creare una voragine dalla quale non si riesce più poi a uscire. E infatti questa è la consapevolezza che per esempio è stata sottolineata dal presidente francese Macron nel discorso di lunedì scorso, quando ha detto riapriamo le scuole proprio perché ci stiamo accorgendo che queste settimane di chiusura stanno creando dei gap, delle diseguaglianze ancora più profonde tra i ragazzi che possono essere seguiti a casa e quelli che non possono essere seguiti a casa. A me pare, Alessia Mosca, che questa parte della decisione di chiudere le scuole sia stata considerata meno significativa rispetto alla necessità ovviamente di garantire la sicurezza, che ripetiamo è ovvio, è scontato, nessuno dice vabbè riapriamo le scuole, mettiamo i ragazzi tutti insieme, non cerchiamo dei moduli diversi, ma lo vedremo poi più avanti con il prossimo ospite, con il professor Marco Rossi Dori, esperto di politiche educative e sociali e ex sottosegretario all'istruzione. Ci sono tanti metodi per far tornare a scuola in parte, non tutta la settimana, i nostri ragazzi, e soprattutto per farli tornare senza condannarli a 4 mesi, perché da metà marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 5 mesi di chiusura delle scuole sono effettivamente un po' tanti, e anche l'insegnamento online è, come dire, una parzialissima risposta alla loro preparazione e al loro bisogno di socializzare con i compagni, di vedere i maestri, come giustamente rilevava Alessia Mosca prima. Alessia, dunque, ci sono due questioni. Una è quella della preparazione dei ragazzi che resteranno indietro, delle diseguaglianze, e l'altra è l'altra diseguaglianza, che è quella che riguarda appunto le mamme lavoratrici, molte delle quali dovranno forzatamente rimanere a casa se i figli, soprattutto piccoli, a scuola non tornano. Da dove ripartire? Dalle aziende, per far capire alle aziende che sono in grado di fare pressioni anche sul governo, che la presenza femminile nelle aziende è preziosa, non è che se ne possa fare a meno per 5 mesi? Ma io credo che un'alleanza in questo senso con le aziende sia possa essere davvero fondamentale, perché le aziende si stanno rendendo conto che hanno veramente bisogno di mettere a disposizione di questa ripartenza anche come un'occasione di rilancio proprio tutte le energie migliori. E quindi io credo che un'alleanza per cui tra le aziende si facciano esse stesse promotrici di questo messaggio, per cui non si può perdere l'energia delle donne, non si può perdere una generazione di ragazzi che poi saranno quelli che diventeranno lavoratori, manager, che servono, che sono, insomma, che entreranno nel sistema produttivo e devono essere all'altezza di poter affrontare le nuove sfide, quindi devono essere preparati. Io penso che in questo le aziende potranno fare molto, e le aziende possono fare subito, da subito anche qualcosa per fare in modo che, per esempio, lo smart working possa essere organizzato in modo che non sia ghettizzante o penalizzante per le donne, perché anche su questo poi bisogna un po' riflettere. Lo smart working ora abbiamo capito che lo possono fare tutti, però devono esserci le condizioni minime perché possa essere fatto in modo efficiente, cioè deve essere fatto in modo che non siano solo le donne a prenderlo, e se lo prendono le donne non è perché poi devono fare la lavatrice o seguire il pranzo e i bambini. Deve esserci una distribuzione dei compiti all'interno delle famiglie, e quindi anche lo smart working deve essere pensato in modo da toccare tutti i lavoratori perché possa essere davvero una modalità efficiente. E io credo moltissimo nello smart working, sono stata la promotrice quando ero nel Parlamento italiano della legge che poi è stata approvata definitivamente nel 2017, quindi per me ha una potenzialità enorme, ma deve essere fatto con le giuste caratteristiche, e in questo le aziende possono trarre da questa esperienza tutti gli insegnamenti per creare le condizioni affinché sia molto efficiente e possa allora sì trarre un beneficio per le aziende e per le famiglie. Una pausa e torniamo tra pochissimo. Radio 24 è sempre con te, ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta e contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi, anche su Sky al canale 749 e su TV Sat. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno di nuovo con Alessia Mosca. La mia curiosità è sempre guardare a quello che fanno gli altri, no? Fuori da Italia, fuori dall'Europa anche. Come segretario generale di Italia ASEAN, che esempio di ripresa di fase 2 di scuole che sono tornate in funzione possiamo citare guardando all'estremo oriente? Lasciamo perdere la Cina, che è stato il focolaio numero uno con Wuhan. Gli altri paesi dell'estremo oriente come possono essere eventualmente dei modelli da imitare nelle cose che funzionano, ovviamente? Ma ci sono stati diverse risposte anche nei paesi, non solo nei paesi europei ma anche nei paesi asiatici, e abbiamo visto che ciascuno ha avuto una modalità differente di poter reagire. Però rispondo con una provocazione che in questi giorni sta circolando sui giornali, è il fatto che i paesi che hanno meglio reagito anche nell'attenzione non solo di chi si è ammalato, di evitare non solo appunto da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista di attenzione delle scuole e delle lavoratrici, sono quei paesi che sono guidati da donne, ecco. Infatti ne abbiamo parlato prima citando l'articolo di Forbes che ha messo insieme come fil rouge la Nuova Zelanda, che è una premier donna, l'Islanda, esatto, Taiwan, la Danimarca, esatto, la Germania, ecco, sì. Questo io credo, ecco, no, ma non perché, ma per, quando si dice le donne devono essere nei luoghi di presa decisione, non perché necessariamente poi sappiano fare meglio, perché in tanti casi poi non è detto, non è così, che abbiano, ecco. Ma in tanti casi non è così, ma il fatto che ci sia anche una prospettiva in questo senso può certamente aiutare a non lasciare indietro nessuno, e quindi a non lasciare pezzi così consistenti. In fondo le donne sono più della metà della popolazione, i bambini sono comunque una popolazione significativa, e poi insomma con tutto quello che anche da un punto di vista simbolico rappresentano, io penso che questo possa essere una spiegazione forse la più convincente per dire: noi, se usciamo usciamo forti, usciamo se le diseguaglianze non sono rimarcate ma sono ridotte. Grazie ad Alessia Mosca, segretario generale di Italia ASEAN, che a questo punto però ci devi dire che cosa significa, perché molti non sanno che cos'è. Sì, ASEAN sono i 10 paesi del sud-est asiatico che si sono riuniti facendo una specie, molto ancora i primi passi, ma di integrazione come l'Unione Europea. Sono i 10 paesi tra cui spiccano Singapore, quindi sicuramente Singapore è stato uno dei paesi che ha reagito, che ha insomma affrontato questa situazione in modo significativo, sicuramente un caso da studiare. Oltre a Singapore, Vietnam, Thailandia, Indonesia, per citare i più grossi, e sono un'area del mondo che ha una grandissima potenzialità, sta crescendo a numeri impressionanti e soprattutto sta dimostrando anche di avere delle idee e una qualità di vitalità economica che sono davvero molto molto interessanti, da guardare con attenzione, un mercato che può essere di grande interesse, ma non solo come un mercato di esportazione, ma anche come paesi con cui fare una partnership costruttiva. Ecco, allora tieni lì d'occhio tutti questi paesi dell'Estremo Oriente e poi torna a raccontarci qui a Nessuna è Perfetta come hanno messo insieme la necessità di garantire la sicurezza dei loro cittadini con la necessità di ripartire con una fase 2 e far tornare a scuola i ragazzi e al lavoro anche le loro mamme. Grazie ad Alessia Mosca, buona molto domenica. Volentieri, grazie mille, grazie. Bentrovato, buona domenica, Marco Rossi Doria, esperto di politiche educative e sociali, è stato sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, è un insegnante e con lei, Marco Rossi Doria, vorrei affrontare il tema che abbiamo prima dibattuto con Alessia Mosca, vorrei affrontarlo sotto il profilo dell'effetto che questa chiusura prolungata delle scuole, chiusura fisica, perché poi l'insegnamento continua online, ma non è la stessa cosa. Ecco, l'effetto che secondo lei potrà avere sui nostri bambini, sui nostri ragazzi. Che cosa cambierà per loro? Sì, grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ma sono cambiate già molte cose, sono cambiate in modo diverso a secondo dei territori, delle famiglie, dei ragazzi stessi. Hanno maggiori difficoltà i territori di esclusione sociale multifattoriale cosiddetta, dove c'è povertà economica, esclusione dalla rete, il famoso digital divide, povertà culturale, famiglie in difficoltà, dove ci sono disabilità o fragilità particolare dei bambini e dei ragazzi e dove ci sono fattori linguistici, perché abbiamo oltre 850.000 bambini e ragazzi che sono integrati nel sistema, ma l'interlocuzione con la casa deve per forza di cose, spesso prevede l'interlocuzione con i genitori che non hanno la conoscenza della lingua italiana, e queste sono le difficoltà. Perché in presenza si lavora perché tutti possano essere inclusi e già si fa fatica, noto che la cosiddetta dispersione scolastica per la prima volta in molti decenni è salita oltre il 14%, era sempre seppur lentamente scesa, e quindi noi prima del coronavirus avevamo già una situazione in bilico, perché tutte le disuguaglianze, come sappiamo, nel nostro paese erano purtroppo in aumento, e quindi anche quelle educative, c'era maggiore povertà educativa. Poi è arrivato il coronavirus che inevitabilmente ha colpito in maniera diversa secondo appunto le diverse situazioni di vita, e raggiungere i più deboli è un lavoro che richiede uno sforzo, un'attenzione, una prossimità, una grande cura della relazione educativa e anche della didattica, e che in queste condizioni sono cose un po' più difficili. Marco Rossi Doria, ci sono parecchi insegnanti che mi hanno scritto protestando e dicendo: ma come, lei la Tella ci vuol far tornare a scuola, a noi che abbiamo 60 anni, 62 anni, e ci vuol fare ammalare di Covid-19. È vero che il nostro corpo insegnante è più anziano di altri paesi europei, ma è anche vero che tanti sono andati in pensione già. Allora, l'obiezione non facciamo ammalare gli insegnanti, obiezione serissima da prendere in considerazione, come è stata risolta nei paesi dove 11 maggio si torna a scuola gradualmente? In Francia 4 maggio si torna gradualmente a scuola, in Germania, in Norvegia hanno aperto gli asili nidi, ce l'ha detto la ministra norvegese la settimana scorsa. Insomma, hanno anche loro degli insegnanti non proprio ragazzini. Perché questo timore che si possa ammalare l'insegnante è stato irrisolvibile, sembra irrisolvibile in Italia, e sembra essere più facilmente, diciamo, risolvibile negli altri paesi? Perché per due motivi, e non è solo una questione, temo, degli insegnanti. Il primo motivo è per quanto siano andati in pensione, per quanti giovani siano entrati. Comunque la media d'età della scuola italiana rimane purtroppo la più alta d'Europa, e quindi questo conta moltissimo. E secondo, perché il modello, chiamiamolo così, forse impropriamente antropologico del nostro paese, vede una grandissima presenza di nonni al posto dei genitori che accompagnano, che vanno a prendere a scuola i propri figli. E questa è una cosa che riguarda l'antropologia culturale del paese, i tempi della scuola, il come è stato organizzato lungo decenni e decenni il nostro modo di vivere, e non è che non c'è una bacchetta magica. Immaginiamoci la ripresa in Veneto della scuola, e i bambini dei nidi, quando i due genitori vanno a lavorare, i bambini della scuola d'infanzia, i bambini della primaria, chi li va a prendere, come si organizza, come si tengono a distanza gruppi di 20 ragazzini di 5, 6 o addirittura 4 anni, 7 anni, 9 anni. E questi sono problemi molto seri che implicano la co-costruzione faticosa in pochissimo tempo, da qui a settembre, di modelli vari a seconda di ciascuna delle realtà territoriali, e del coinvolgimento, a mio parere, l'ho scritto e lo ripeto qui e vi ringrazio, di altre figure educative che per fortuna esistono nel cosiddetto terzo settore, che possano affiancare la scuola nell'accompagnamento. E poi implica, in secondo luogo, il fatto che dobbiamo inventare e co-costruire anche qui modelli misti, dove c'è un tempo dove ci si rivede in presenza perché è necessario, un tempo dove, almeno per una parte delle elementari, le medie senz'altro, le scuole superiori, si continua per un tot di giorni o di ore della settimana a distanza, come proficuamente in grande misura si è fatto fin qui, e poi una parte in cui, almeno nei mesi in cui ancora c'è bel tempo, perché fortunatamente viviamo in Italia, settembre-ottobre, vi sia la possibilità di utilizzare la città e i territori come occasione educativa, per cui non è che si deve stare a scuola in 20, ma per piccoli gruppi si esplora il proprio territorio, questa straordinaria mappa di conoscenza che il nostro paese, in termine storico, scientifico, paesistico, e si riportano poi in piccoli gruppi, sia a distanza che in presenza, quello che si vive. Inoltre si studia in piccoli gruppi, a distanza e in presenza, quello che si è vissuto, perché questa generazione di bambini del mondo, in questo momento sono 1.650.000.000 i bambini e i ragazzi che non stanno a scuola nel mondo, ha vissuto una cosa che nessun'altra generazione ha vissuto globalmente in quanto tale. sente tutto quello che si dice su questo, ma ha bisogno di studiare formalmente quello che ciò implica. Vedono la televisione, sentono gli statistici, i medici, gli scienziati, i matematici, gli economisti, i politici, il Papa, la religione, che parlano di questo fenomeno. Lei giustamente, e possono insieme continuare a studiarlo, perché parla di tutto il nostro mondo e il nostro futuro come specie umana sul pianeta. Una pausa e torniamo tra pochissimo. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Dalla Brexit alla Libia, dal terrorismo internazionale alle proteste di Hong Kong, il mondo è sempre più interconnesso. Ciò che accade dall'altra parte del globo ci riguarda sempre e comunque. Per questo ogni giorno racconteremo storie, proporremo analisi, porremo domande e cercheremo insieme a voi le risposte con esperti internazionali, voci dal campo e reporter dalla prima linea. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun luogo è lontano, dal lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. Nessuna è perfetta. Torniamo con Marco Rossi Doria, esperto di politiche educative e sociali, già sottosegretario al Ministero dell'Istruzione. Lei giustamente sottolinea la necessità di non far passare in superficie un'esperienza che molti capi di Stato hanno evocato come una vera guerra, e comunque si tratta di un evento appunto mondiale e di impatto così forte, violento, con migliaia e migliaia di persone che in ogni paese purtroppo muoiono. È morto Sepulveda ed è morto di coronavirus questa settimana, quindi sono eventi che colpiscono l'immaginazione di tutto il mondo. Quando muore un grande amatissimo scrittore, questo forse colpisce, ahimè, è vero, ancora in maniera più così impressive, dicono gli inglesi, di quanto non colpisca forse il bollettino dei morti quotidiani. Però prima di salutarci, Marco Rossi Doria, io volevo riflettere con lei sull'altro dilemma al quale abbiamo dedicato la prima parte della trasmissione, vale a dire: se le scuole restano fisicamente chiuse, si fa il lavoro a distanza con tutte le difficoltà che questo comporta per le famiglie meno avvantaggiate, ma c'è anche un aspetto di chi rimane con questi ragazzi, perché lasciarli soli in età anche difficili, e quando poi il lockdown non ci sarà più e quindi questi ragazzi potranno anche uscire, girare, significa lasciarli molto in balia di se stessi. Molte mamme questa scelta non vorranno farla, non vorranno lasciare soli i loro figli, tanto più magari se sono piccoli e, ripeto, non potendo più contare come si faceva prima sui nonni, perché magari i nonni appunto sono considerati fragili e da tenere al riparo. Dunque saranno le donne che dovranno rinviare il ritorno al lavoro, con problemi per il budget familiare e anche per la parità, questa parità di cui qui a Nessuna è perfetta abbiamo parlato per 5 anni. In realtà non siamo pari manco per niente, perché nel momento del bisogno si torna all'Italia degli anni 50 e 60, quando le mamme stavano a casa. Mi sbaglio? Il rischio c'è, è gravissimo, e quindi non si sbaglia. Ma non è l'unica soluzione. Non è l'unica soluzione in un paese che comunque ha fatto dei grandissimi passi in avanti negli ultimi decenni. come opporsi a questo rischio? Ma anche qui l'unico modo per ragionare vuol dire dividere, viene dal latino, bisogna dividere i problemi per poterli affrontarli bene, e io penso che bisogna distinguere tra età. I bambini molto piccoli hanno bisogno di un'organizzazione di tipo nuovo, non possono, se sei una mamma con un bimbo che va al nido perché tu possa andare a lavorare, un papà con un bimbo, che bisogna ricreare un patto di genere tra maschio e femmine e sostenuto in qualche modo dalla comunità, dallo Stato, per cui ci possa essere un'integrazione di salario che consenta a quel bimbo piccolo di stare un po' con la mamma e un po' col papà. Per la scuola d'infanzia e per la scuola primaria ci possono essere forme miste, dove almeno alcuni giorni a settimana in piccoli gruppi i bambini sono con una maestra o, ripeto, affiancati da organizzazioni del terzo settore con vocazione e competenze educative. Poi più in là diventa via via più semplice. Adolescenti soli per la città? No, non necessariamente. Anche qui adolescenti che hanno momenti con i loro docenti e momenti in piccoli gruppi dove le agenzie del terzo settore, che hanno una vocazione, una competenza educativa, possono affiancare e d'intesa con la scuola produrre grandi occasioni di apprendimento a scuola e fuori. Noi abbiamo in questo momento, proprio nei quartieri difficili del nord e del sud, una serie di progetti che da anni, prima del Covid-19, affiancavano appunto educatori ed insegnanti a Torino, a Palermo, a Napoli, altrove. In questi progetti di integrazione educativa tra fuoriscuola e scuola, in quartieri difficilissimi, i device sono arrivati anche agli ultimi degli ultimi, la scuola si sta facendo, gli educatori affiancano gli insegnanti da lontano e le cose tengono bene. Allora, pensare a questa grande risorsa educativa che abbiamo a fianco alla scuola in termini un po' più forti che in passato potrebbe aiutarci a trovare delle soluzioni. È un'ipotesi e la ringrazio Marco Rossi Doria per averne parlato qui a Nessuna è Perfetta. Intanto buona domenica a lei e a noi, ai nostri ascoltatori, vorrei far sentire, a proposito del dilemma, no, che c'è tra tornare al lavoro, che serve in tante famiglie, tornare al lavoro serve, e non lasciare soli i bambini visto che le scuole non riaprono, ecco quello che all'828 12 12 ci è arrivato da un'ascoltatrice. Buongiorno Maria, volevo dire che come molte donne e mamme mi ritrovo in questa fase a dover gestire la casa, marito, figli, alle prese con la scuola a distanza. Io sono una commessa, in questo momento naturalmente non sto lavorando, quindi è un problema. Non voglio lamentarmi, però senza dubbio c'è chi sta peggio di me, ma io sono molto molto spaventata dal poi. Sento parlare di un'apertura sociale a data che non si sa e quindi sono molto preoccupata. Ma se i miei figli non potranno più andare a scuola, io come faccio? Come potrò riprendere a lavorare? Come posso aiutare la mia famiglia? Non credo che serva commentare, ne abbiamo parlato per tutta la puntata e spero proprio che qualcuno si metta al posto di tante lavoratrici che dovranno fare una scelta e non sarà una scelta facile. Grazie a tutti voi che ci avete seguito anche questa domenica, Nessuna è Perfetta torna con voi domenica prossima e se vorrete invece da domani, da lunedì, come sempre da lunedì al venerdì 8:20 24 mattino su Radio 24 con Simone Spezia. Intanto buona domenica, ciao!